Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e della domenica con i settimanali mensili italiani e stranieri. Cominciamo con Vanity Fair perché nella rubrica barbarica che è affidata a Daria Bignardi si parla di uno di quei temi eterni e sui quali verrebbe da dire non se ne sa mai abbastanza: educare i figli. È meglio essere severi o essere comprensivi? Come ho detto, è un tema eterno che probabilmente non ha una soluzione, potremmo parlarne per giorni senza arrivare magari a dei punti fermi. Ma è interessante l'esperienza di Daria Bignardi, raccontata appunto su Vanity Fair. Dice: mentre inizio a scrivere questa rubrica, la bambina guarda i cartoni animati in televisione da più di un'ora. Sono combattuta tra la tentazione di finire tranquillamente il mio articolo e il non volere che stia troppo davanti alla TV. E perché questa cosa la preoccupa così tanto? Preoccupa così tanto la Bignardi? Perché dice: sto scrivendo di Amy Chua. Amy Chua è una mia coetanea cinese che insegna a Yale e in America ha generato un gran dibattito con un libro che si chiama L'inno di battaglia della madre tigre. Il titolo è bellicoso, ma capirete subito perché. In questo libro spiega i successi dei metodi educativi dei cinesi con i loro figli. Racconta ad esempio di quando ha obbligato la figlia di 7 anni a stare seduta al pianoforte fino a notte, finché non è riuscita a imparare un pezzo particolarmente difficile, urlandole contro, impedendole di alzarsi per bere o per qualsiasi altra cosa, incitandola con le buone e soprattutto con le cattive. Prosegue nel racconto Daria Bignardi: pare che la bambina, che all'inizio aveva tentato di ribellarsi, dopo essere stata obbligata a continuare, a un certo punto sia effettivamente riuscita a eseguire il pezzo e alla fine fosse soddisfattissima di sé. Da questo caso la professoressa Amy Chua, trae un insegnamento che è il seguente: i genitori occidentali si preoccupano molto dell'autostima dei loro figli, ma come genitore una delle peggiori cose che puoi fare per la loro autostima è lasciarli arrendere di fronte a un ostacolo, perché non c'è niente di meglio per acquistare fiducia che scoprire di poter fare qualcosa che non si pensava di saper fare. Ammette la Bignardi: la cosa seccante è che molto probabilmente la professoressa ha ragione. È vero che noi occidentali e noi italiani davanti a tutti siamo genitori troppo permissivi, anche per pigrizia e per distrazione. È poi più comodo lasciare il bambino davanti alla TV che non sedersi 3 ore al suo fianco a fargli fare gli esercizi di pianoforte. È più facile dire sì che dire no. Che invidia questa accademica di Yale che, nonostante i suoi successi, trova il tempo e soprattutto le energie per mettere in pratica tutte le sue regole ferree. Prosegue ancora con un virgolettato tratto proprio dal libro, che ripeto si chiama L'inno di battaglia della madre tigre. Insegno agli studenti di legge da 17 anni, moltissimi sono cresciuti con il metodo degli immigrati severi, perché hanno genitori pakistani, indiani, nigeriani, coreani, iraniani e così via, eppure sono forti, indipendenti, coraggiosi, creativi, spiritosi e, almeno ai miei occhi, sono felici come tutti gli altri. Conosco anche persone cresciute all'insegna dell'amore incondizionato che non sono felici per niente e provano risentimento verso i loro genitori. Questo il racconto che fa proprio la professoressa Amy Chua del Wall Street Journal. Alla fine di tutte queste considerazioni uno si domanda: allora, che ha fatto Daria Bignardi con la figlia che stava a guardarsi nei cartoni animati? Dice: mentre sono assorto in questi pensieri, la bambina arriva, si sdraia sul tappeto con il suo libro. Ha spento la TV da sola. Io non le rovinerò la vita, ma se andrà all'Olimpiade, devo ammettere che non sarà certo per merito mio. Allora veniamo a un tema più leggero. Sui settimanali in questi giorni c'è stata una esplosione di Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo in realtà si terrà a metà febbraio, ma se ne è parlato già molto, è stata presentata la nuova edizione e un po' dappertutto, non solo sui settimanali più attenti alle questioni televisive o musicali, ma ripeto, un po' dappertutto sono comparse delle pagine dedicate proprio a questa manifestazione. Naturalmente Sorrisi e Canzoni TV ha la sua una segnalazione in copertina dedicata all'anteprima di Sanremo, ma è interessante anche una cosa che troviamo ancora su Vanity Fair, perché Vanity Fair ha chiesto proprio un commento a Davide Van de Sfross. Ora, Davide Van de Sfross, devo fare una piccolissima premessa, è un cantante di successo che ha questa particolarità, canta in un dialetto lombardo, un dialetto che non è neanche immediatamente percepibile, ma ha un notevole successo e oramai diciamo anche una risonanza, una notorietà a livello nazionale. Si è parlato di lui non solo perché andrà a Sanremo, ma anche perché a Sanremo canterà Viva l'Italia, e quindi fa notizia il fatto di un cantante che appunto abitualmente si esprime in dialetto e che invece canterà questa canzone di De Gregori. Davide Van de Sfross scrive a Vanity Fair e il suo articolo dice, spiegano nelle premesse per il suo articolo, che da sempre il Carroccio ritiene Van de Sfross uno dei suoi. Lui ha sempre liquidato la faccenda dicendo che non fa politica ma solo canzoni dialettali. Adesso il quotidiano della Padania lo ha accusato di tradimento perché al festival canterà Viva l'Italia nella serata che, come sappiamo, dovrà celebrare i 150 anni dell'unità. Davide Van de Sfross allora ha deciso di rompere il silenzio, di ricostruire perché sarà sul palco dell'Ariston. Leggiamo perché. Van de Sfross spiega: credo di non aver mai detto io non guardo Sanremo, anche nei periodi in cui ascoltavo altro tipo di musica, una sbirciata però l'ho sempre data, senza troppe menate, senza nemmeno perderci il sonno. Credo anche di non aver mai detto non andrò mai a Sanremo, ma neanche di aver pensato seriamente di andarci, seppure molti per strada mi chiedevano quando ci sarei andato. Ecco cosa succede, racconta Van de Sfross: Morandi e Mazzi vengono addirittura sul lago a invitarmi, sono troppo dannatamente convincenti, il regolamento cambiato da un anno dice che posso cantare in tutti i dialetti italiani che voglio e l'elenco degli ospiti sembra la lista delle persone che io inviterei al mio compleanno. Perfino una delle due presentatrici è diventata quasi una vicina di casa da quando sta con George, avrete capito di chi si parla. E poi, dice, mi lasciano portare anche la band, e poi mi fanno cantare anche un brano di Francesco De Gregori, e poi mi permettono di proporre una canzone che era già scritta per il disco nuovo, non devo neanche scriverne una apposta, e poi c'è il maestro che mi accompagna con l'orchestra. E allora mi sono detto, ma che cavolo vuoi ancora, brutto orso lariano che non sei altro? Beh, dice, voglio anche io la mia parte di polemica, come ogni partecipante a Sanremo che si rispetti. E allora dice, la polemica è facile, basta raccontare che io canti una canzone che si intitola Viva l'Italia, senza però che ci siano i mondiali di calcio in corso, e vedrai che qualcuno disposto a darti del pirla, chiedo scusa, ma questo è proprio il testuale, lo trovi. Ma se vuoi più polemica ti facciamo magari cantare Va pensiero, Bella ciao, Giovinezza, e allora vedi che casino. Va bene così, conclude Van de Sfross, vengo a Sanremo. Su Sanremo ancora vi segnalo, poi potrete anche approfondire, c'è una storia molto gustosa di Sanremo, I padroni di Sanremo, una storia italiana, è un contributo di Cesare Lanza che compare su Panorama. Cesare Lanza è giornalista e autore televisivo, tra l'altro lui ha curato anche delle edizioni di Sanremo nel 2005, nel 2009 e anche l'anno scorso l'edizione del 2010, quindi è persona in qualche modo molto bene informata dei fatti. Nella sua storia di Sanremo ci ricorda tra l'altro che il festival nacque di lunedì sera, il 29 gennaio del 51, per chi è amante delle ricorrenze, presentava all'epoca Nunzio Filogamo, stava in tre serate, veniva eseguito dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e per assistere il pubblico pagava 500 lire a biglietto. Non viene data la conversione, l'attualizzazione di questo importo, quindi non saprei dirvi a quanto corrisponde, immagino che non fosse particolarmente economico. La formula invece era super economica, spiega Lanza, perché c'erano 20 canzoni, tutte affidate all'interpretazione di Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano, quindi insomma una cosa fatta un pochino al risparmio. Certo, nessuno quella sera poteva immaginare che in pochi anni Questa minuscola rassegna, apparentemente senza pretese, sarebbe diventata il massimo evento della vita musicale italiana. Il budget televisivo oggi è di 18 milioni e mezzo, ma le cifre del business che si accompagna a Sanremo vanno ben oltre, perché immenso è l'indotto ed è tale da condizionare il lucro oppure il flop delle case discografiche e le carriere dei cantanti. Secondo l'ANSA si stima che il budget complessivo, il giro d'affari complessivo che ruota attorno a Sanremo, si collochi tra i 100 e i 150 milioni di euro. È evidente che con questo tipo di indotto, con questo tipo di importi e di investimenti, si capisce bene perché su molti settimanali, ne dico in questi giorni, avete già cominciato a trovare una sorta di accompagnamento a Sanremo. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Visto che stavamo parlando di televisione del Festival di Sanremo, due segnalazioni da Sorrisi e Canzoni TV. L'una più prossima del Festival di Sanremo, il 27 di gennaio, celebreremo il giorno della memoria. Come sapete, il giorno in cui si ricorda l'Olocausto, quindi lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. E questo verrà fatto adeguatamente anche con una copertura televisiva, segnala appunto Sorrisi e Canzoni che già il 26 ci sarà un film dedicato proprio alla resistenza di un gruppo di ebrei contro gli invasori nazisti, e poi proprio il 27, nel giorno della memoria, le reti celebreranno questa ricorrenza con film e documentari. Verranno tra l'altro trasmessi La vita è bella, Il pianista, Trend e V, La storia di Anna Frank e anche uno speciale della giornata della memoria che andrà su Rai Storia. Trovate tutte le informazioni e i canali su Sorrisi e Canzoni. Lasciamo questo argomento, invece una cosa decisamente più leggera di questi giorni: il film di Checco Zalone, come sapete, è un successo quasi imprevisto da un certo punto di vista per gli stessi autori, per lo stesso interprete. Ancora su Sorrisi e Canzoni segnalano che questo film ha polverizzato ogni record, oltre 30 milioni di euro incassati in meno di 3 settimane. Per Che bella giornata, si chiede, c'è ancora qualcosa da scoprire? Si chiede Sorrisi e Canzoni su questo film, Che bella giornata, di Checco Zalone. Ebbene sì, perché vi diamo dei retroscene, delle curiosità di questo film. La prima idea è venuta al regista appena una settimana dopo l'uscita del primo film, che era Cado dalle nubi. Il copione iniziale è stato scritto in un mese e mezzo. Zalone ha improvvisato solo una minima parte sul set e sono stati girati 120 minuti di film, cioè 2 ore. Dopo il montaggio si sono ridotti a 90. Ci sono delle scene che sono state tagliate e che però verranno inserite poi nella versione DVD del film. A differenza, questo è abbastanza divertente, a differenza del film precedente, si intitolava Cado dalle nubi, questa volta nessuno degli attori contattati si è rifiutato di partecipare al casting per Che bella giornata. Quindi Checco Zalone ha avuto un aumento di credibilità che dopo questo successo naturalmente diventerà ancora maggiore. Volevano anche girare una scena all'interno del Duomo di Milano, ma poi per difficoltà nelle autorizzazioni si è ripiegato sul Museo del Duomo. Queste e altre indicazioni di retroscena sul film di Checco Zalone su Sorrisi e Canzoni TV di questa settimana. E adesso invece vorrei lasciare spazio a una cosa molto spiritosa, molto leggera, che è per la rubrica di Geppi Cucciari, che trovate tutte le settimane, come sapete, su Donna Moderna, perché Geppi Cucciari canzona, mette in ridicolo davvero alcuni dei tratti che possiamo avere, specialmente quelli che si fanno all'inizio del nuovo anno, come un po' questo periodo. Facciamo tutti dei buoni propositi, dieta, smettere qualche vizio, limitarsi in qualcosa, iscriversi in palestra e così via, e poi naturalmente la maggior parte di questi buoni propositi finiscono dimenticati o rinviati all'anno nuovo. Ecco, il titolo della rubrica di questa settimana è Per non fare la fine della ciclette, che è un altro dei buoni propositi. Qual è la fine della ciclette? Lo spiega appunto la stessa Cucciari. Negli anni 80, scrive, è capitato a molte di acquistare una ciclette, specie nel periodo post natalizio. Qualcuno avrà anche abbinato l'investimento all'acquisto di un body in licra, un paio di scaldamuscoli muscoli in stile flash dance, convinta di poter pedalare così abbigliata non meno di 15 minuti al giorno, quindi un buon proposito per il nuovo anno. Ma l'infernale trabiccolo, prosegue Giappi Cucciari, posizionato tra la cassettiera e l'armadio quattro stagioni, in due settimane si modifica. Da alleato nella battaglia contro il grasso si tramuta in raccoglitore di maglie, tute da ginnastica, vestaglie in lanetta, solo i pedali rimangono liberi, ultimo baluardo ciclistico. Ora però, spiega, le cose sono cambiate, perché la vecchia cara bicicletta da camera, che in realtà è un portaabiti, ha dovuto cedere il passo a oggetti molto peculiari. In TV prosperano le vendite di attrezzi specifici per fortificare i soli glutei, per rassodare esclusivamente le braccia, ricalibrare gli addominali, però solo quelli obliqui. Sono arnesi piccoli su cui non si potrà mai posare un bel niente, se non per non vedere più appunto gli oggetti medesimi. Questa nuova scuola di pensiero dimostra come oggi tutto sia volto alla cura dei dettagli. Però io ricordo che, secondo Seneca, scrive appunto la Cucciari, la bella donna è quella il cui aspetto complessivo impedisce di osservare le singole parti. E allora, dice, mostriamo sia i nostri pregi sia le nostre magagne, smettiamo di pensare che tutti staranno a guardare proprio quelle caviglie o quei denti ed eviteremo di fare la fine della cicletta, di cui alla fine restano in vista soltanto i pedali. Un oggetto invece molto più moderno della cyclette è sicuramente l'iPad. Sull'iPad l'Espresso si pone una domanda abbastanza cruciale, cioè: ma come lo usiamo l'iPad? E Alessandro Longo cerca di capire quali sono gli utilizzi, le app si chiamano, per chi appunto avesse già l'iPad, ma alcune app sono disponibili anche sull'iPhone, che è invece un telefono molto più diffuso di questa tavoletta. E l'iPad, appunto, che ci facciamo, visto che molti di noi cominciano ad averlo, che cosa vanno cercando, che cosa si aspettano di trovare? Tra l'altro, consentitemi di ricordare, ci trovate anche il Sole 24 Ore, ci trovate anche un magazine digitale fatto da Sole 24 Ore espressamente per iPad, che si chiama La Vita Nova. Che ci vogliamo fare con l'iPad? I quattro utilizzi principali, secondo quanto riferisce Alessandro Longo sull'Espresso, sono navigare, leggere libri, vedere video e giocare. Quindi sostanzialmente chi ha l'iPad ci fa queste quattro cose. Però sorprende che la maggior parte degli utenti dichiari di usarlo per più ore rispetto agli altri computer presenti a casa. Quindi, da quando è entrato in casa l'iPad, è meno abituale accendere il computer portatile oppure portarselo in giro. Altra tendenza interessante: gli utenti dichiarano di aumentare le ore di uso giorno dopo giorno, mano a mano che passa tempo dall'acquisto. Quindi un oggetto che si usa sempre di più man mano che lo si possiede. E poi ci sono naturalmente gli usi d'avanguardia del prodotto. A Londra ci sono i musicisti di strada che suonano con l'iPad. A Mosca è nato un gruppo che si chiama iPad Orchestra e che esegue musica solo con quattro di questi tablet. Ognuno di questi quattro simula naturalmente uno strumento. Poi ci sono dei musicisti tradizionali che hanno già mostrato in pubblico degli esperimenti di questo tipo. Il pianista cinese Lang Lang o anche il cantante italiano Morgan hanno già cominciato a contaminare appunto le loro esibizioni con l'iPad. Ci sono poi i ristoranti, per adesso negli Stati Uniti, ma qualche esempio c'è anche in Italia, che presentano i menu o la carta dei vini con iPad. Quindi la carta dei vini e il menu diventano interattivi e, spiega ad esempio un ristoratore italiano, mi aspetto che questi menu poi evolvano e arrivino a mostrare come vengono cucinate le portate, da dove viene un certo formaggio oppure come viene lavorato un certo vitigno. Poi ci sono gli usi ad esempio in via sperimentale nel Policlinico Gemelli, negli ospedali, insomma, per informatizzare cartelle dei pazienti e, naturalmente, l'abbiamo sentito, scuole e università, dove l'iPad comincia a sostituire i libri di testo. Qualche esempio comincia a esserci anche in Italia, insomma, una tavoletta che dovrebbe cambiare, insieme naturalmente ai suoi concorrenti che stanno via via aumentando, il rapporto, chissà, forse anche proprio con le riviste che ogni settimana sfogliamo qui. E con questa indicazione si conclude questa puntata di Magazine 24. Io ringrazio Paolo Corleone questa mattina in regia, grazie a Luca Rinaldi che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Magazine 24 ritorna sabato prossimo. Buona domenica a tutti.